19. Predestinazione. In qualche punto fra Shanghai e Manila, la giunca Jos fu sorpresa, in navigazione, da un ciclone e tutti coloro che si trovavano a bordo furono assaliti dal terrore. Quando la tempesta fu al suo apice, un dio apparve e con voce terrificante volle sapere se vi fossero dei fratelli. Ridendo per il sollievo, i passeggeri indicarono due che stavano fianco a fianco. Il Dio parlò di nuovo. Rinnega tuo fratello e potrai restare a bordo. Se non rinunci al tuo vincolo, salta in mare. Senza aspettare un istante, i fratelli, come se fossero una persona sola, si tuffarono nelle acque turbolente e sprofondarono sempre più finché i loro piedi toccarono il fondo dell'oceano. Ma mentre si inchinavano l'uno all'altro per dirsi addio, due gigantesche tartarughe si fermarono davanti a loro e in un attimo li portarono alla superficie del mare. Uno nuotò verso il continente, l'altro verso le isole. La grande nave era scomparsa. Da nessuna parte si vedevano coloro che avevano rinnegato i propri vincoli. Non un'onda increspava le acque e il cielo era di un azzurro luminoso. Storia di Clan. Durante la quindicina dei germogli di riso, il caldo aumentò fino a diventare quasi intollerabile. Ogni tenda di bambù fu abbassata per tener fuori il sole spietato e molti dormivano fino al tramonto, senza mai alzarsi dalle loro stuoie di paglia. Mentre i servi rinfrescavano l'acciottolato e le aiuole con acqua di sorgente che spruzzavano con una scopa, ma nulla dava sollievo se non una tazza ancor più bollente di tè. Ci si aspettava un gran temporale. Tuttavia, il settimo giorno dopo la partenza di talento nobile per Shanghai, la matriarca si svegliò presto dal suo sonnellino pomeridiano, poiché era un suo costume immutabile proprio quel giorno, una volta l'anno, ingerire l'elisir di perle. All'ora della pecora si trovava seduta al suo tavolino da toilette sovrintendendo i preparativi per la pozione. Mentre la schiava anziana le sventolava dolcemente un ventaglio, l'altra, più graziosa, macinava le perle che erano state cotte con riso. «È abbastanza fine, padrona?» «Quasi, macina ancora un poco», rispose la matriarca. «Spero che mio marito mi comprerà delle perle un giorno», fece la ragazza. «Non le berrei, ma le porterei alle orecchie». «A cosa servono le perle alle orecchie?» ribatté la matriarca. Se i tuoi capelli non sono lucenti e le tue guance non sono luminose, meglio berle. L'altra schiava si strinse nelle spalle. Perché fare questi discorsi, sorella? Io e te non vedremo mai più delle perle una volta che ce ne andremo di qui. La matriarca annuì. La ragazza più anziana mostrava del buon senso. Doveva darsi da fare per trovarle un buon marito lavoratore. Quando le perle furono macinate e ridotte a una polvere sottile come cenere, la matriarca stessa la mescolò in un bicchiere di acqua di riso zuccherata e beve lentamente l'intruglio, senza alcuna smorfia di disgusto, nonostante l'orribile sapore. Non aveva ancora finito, quando ci fu confusione alla porta. La matriarca socchiuse gli occhi, ma prima ancora che potesse parlare, Ciccia fece irruzione con ciocche di capelli che gli ricadevano sugli occhi e il grembiule di traverso. Gesticolando verso il cielo, gemeva come una donna il cui piccolo si rifiuta di nascere. La matriarca troncò il secondo crescendo di lamenti. Basta, Ciccia, che cosa c'è? Tuo marito è forse tornato a farti visita? Coi vecchi servi si usava indulgenza, ma nemmeno Ciccia poteva permettersi di interrompere i rituali della matriarca. È stato terribile, terribile, ma non sono penetrati nei cortili interni. Ma chi? Di cosa stai parlando, donna? Dei soldati manciù! Con una manica Ciccia si asciugò le goccioline di sudore sul labbro superiore. Avevano delle sciabole con cui frugavano nei cespugli. Hanno attraversato tutte le stanze al di là del muro di marmo, lasciando una scia di fango per terra. Hanno fatto allineare i portatori e poi li hanno esaminati uno dopo l'altro, tirando a ciascuno la coda. Vecchia padrona, stanno frugando ogni casa di Shuchao alla ricerca dei due pazzi che hanno fatto saltare una bomba allo Yamen. Le due schiave schizzarono verso la porta. Non potevano perdersi un simile spettacolo. Pazze! Ciccia bloccò loro la strada. Il vostro dovere è di stare qui. Inoltre i soldati se ne sono andati. Il patriarca ha pagato una mancia sostanziosa, altrimenti sarebbero arrivati anche qua. Non oserebbero mai, pensò la matriarca, non nella casa dei Chang. Eppure. Ciccia, lascia andare le ragazze, hanno messo a dura prova la mia pazienza. Fuori, fuori! Quando furono sole, si rivolse alla vecchia serva. Perché mai ti sei messa a gridare e a urlare come una mendicante? Dov'è la tua dignità? Ciccia chinò il capo, nascondendo le ciocche sparse dietro le orecchie. Vi prego di perdonarmi, vecchia padrona. La matriarca non si rabbonì. Va subito a chiamare mio figlio. Sono dolente di informarvi che il patriarca sarà assente tutto il giorno. Così, tanto per cambiare, al momento opportuno lui non c'era. Pazienza, c'era senza dubbio qualcun altro che sapeva e che sarebbe stato più disposto a parlare. Allora fa venire qua l'una di primavera. Dopo essersi scusata di nuovo, Ciccia si congedò. Rimasta sola, la matriarca si abbandonò sulla sedia. Le doleva la testa, si portò le mani alle tempie e chiuse gli occhi. Era da mesi, pensò, che si era profilata la catastrofe. Da quando era tornata l'una di primavera con quella incorreggibile nipote della Hanlin. Quante volte gli altri si erano lamentati per la preferenza mostrata dal patriarca verso quelle due. Ora tutte si lamentavano degli appannaggi altrui, accusandosi l'un l'altro di spendere troppo. La vecchia generosità era scomparsa, la discordia si diffondeva e presto lei non ci sarebbe stata più. Qualcuno bussò. Nonna, posso entrare? Con uno sforzo la vecchia si raddrizzò e fece cenno all'una di primavera di sedersi. Rimasero a lungo in silenzio. La giovane stava a capochino, il caldo ristagnava togliendo il fiato. Infine la matriarca parlò. Anche se non sono in grado di leggere i libri, so leggere le facce. Da un po' di tempo ho dei sospetti su quanto sta succedendo in questa casa. Non è soltanto la calma del sole che ha fatto fuggire il terzo prozio e il secondo cugino verso le montagne. Non sono semplicemente i nostri problemi di stomaco che fanno correre avanti e indietro senza posa la mia nuora dalle cucine. Non è semplicemente l'allegra vita notturna di Shanghai che fa sì che il mio terzo figlio arrivi nel cuore della notte e se ne vada senza nemmeno un cenno di saluto. Non è l'ubicazione dei nostri cortili a Shuchao che sollecita l'attenzione dei soldati Manciù. La vecchia si interruppe aspettando di sentire cosa l'altra avesse da dire. L'una di primavera taceva. Allora? Allora? Ancora silenzio. Incollerita, la matriarca afferrò il ventaglio e lo puntò verso l'una di primavera, sempre a capochino. Per quale motivo? Per via del ragazzo. Quale ragazzo? Il nuovo servitore che lo zio anziano ha assunto per aiutare il vecchio giardiniere nei cortili interni. Perché? L'una di primavera esitava, poi alzando gli occhi si sfiorò i capelli. Perché alto e porto un asciugamano intorno alla testa nonostante questo caldo? Non parlare per enigmi! Spiegati! La matriarca aprì di scatto il ventaglio. Pensano che potrebbe essere uno di quelli che i soldati stavano cercando oggi. Il venditore ambulante che alloiamente teneva una bomba nascosta in un melone e perse la coda. Perché allora talento coraggioso non lo licenzia o non lo consegna alla polizia? Non l'ha detto, semplicemente si rifiuta di farlo. Così tutti sospettano che lo zio anziano sia il signore che aiutò il venditore ambulante a scappare. Ah, ridicolo! La matriarca inspirò rumorosamente dal naso. Sono impazziti tutti in questo clan. Ridicolo! Rifletté un istante. Non è lui, vero? No, nonna. Ecco, no, insieme al venditore ambulante c'era lo zio giovane. Il movimento del ventaglio della matriarca rallentò e poi si fermò del tutto. Lei chiuse gli occhi. Quanin misericordiosa, pregò. Sii generosa e proteggi questa casa dal Luan. Ad alta voce domandò, come fai a saperlo? L'una di primavera non rispose immediatamente e la matriarca ripeté la domanda. A malincuore. La giovane vedova spiegò. Ad ascoltarla la vecchia si sentì venir meno, finché sembrò che i tratti del suo volto fossero tenuti insieme soltanto dalla polvere di riso. Amitabha, tu e i miei figli vi siete macchiati di tradimento! I Manciù infilzeranno le nostre teste come uova d'anatra, rovesceranno le tombe dei nostri antenati e ne sparpaglieranno le ossa al vento. Amitabha! Aveva gli occhi colmi di lacrime. Nonna, vi prego, non piangete, tutto andrà bene. Il venditore ambulante se n'è già andato. Lo zio anziano lo sta portando fuori dalla città proprio ora. I giovani vedono solo quel che desiderano vedere, pensò la matriarca. I vecchi vedono anche il resto. Ora ne era sicura, i suoi giorni d'oro erano finiti. Nonna, non addoloratevi, tutto tornerà come prima. E come? Presto le autorità scopriranno che esiste un legame fra te, mio figlio e il Manciù, fra quel tizio e la bomba, fra la bomba e Talento Nobile, e fra Talento Nobile e questi cortili. Sei pazza se pensi che tutto possa tornare come prima, e anche mio figlio lo è. È soltanto una questione di tempo, soltanto una questione di tempo. Lasciò cadere il ventaglio che cadde silenziosamente sul tappeto. Luna di primavera si inginocchiò a raccoglierlo, mettendolo dolcemente in mano alla vecchia. La matriarca rimase seduta immobile ancora per parecchio tempo, dopo che la nipote fu uscita. Mai, in 73 anni, aveva immaginato che tutto sarebbe andato a pezzi, che i cancelli della dimora di suo marito potessero chiudersi, separando i membri di una stessa famiglia. E anche se la separazione fosse stata solo temporanea, avrebbe inevitabilmente condotto all'isolamento. Nessun fratello si sarebbe mai potuto considerare degno d'onore se l'altro avesse macchiato l'onore della famiglia. Per il resto del pomeriggio rimase sulla sua sedia e quando le serve vennero per accompagnarla a cena, rispose che avrebbe mangiato nel suo alloggio. E quando le signore passeggiarono lungo i giardini per godere della brezza della notte, lei non si unì a loro. Non se la sentiva di sedersi accanto allo stagno dei loti dove un tempo si alzava il cipresso. Dopo una notte insonne, mandò a chiamare il suo indovino preferito. Era l'ora del serpente quando la serva fece entrare il grande veggente nel suo alloggio privato. Come sempre, la veste di cotone grigio dell'esile vecchio non era proprio immacolata. Un ombrello nero gli pendeva dal gomito sinistro. Nella mano destra aveva la gabbia di bambù dipinta di rosso che ospitava il suo uccello Minah. Si chinò e si scambiarono i saluti prima che egli prendesse posto al tavolino rotondo di noce sul quale di norma si serviva il tè. Mentre egli si accingeva a estrarre le carte dal risvolto della manica, gli occhi della vecchia corsero veloci per la stanza. Fuori! Tutti fuori! Diversamente dal solito, le schiave se ne andarono senza protestare. «Incominciamo?» chiese il grande veggente. La matriarca si alzò e andò alla finestra aperta. Non c'era alcun suono, ma come un ondeggiare di ombre. Chiuse le persiane e tornò a sedersi. «Ora incominciamo.» Lui mischiò le carte 3 volte e le dispose in 3 file di 3 carte ciascuna. Poi, rivolto all'uccello, salmodiò: uccello spirituale, esamina il cuore di questa vecchia donna, indovina le risposte alle questioni che la agitano, scegli quel che devi scegliere. Aprì lo sportello della gabbia, il Minà saltellò fuori, si inchinò alla matriarca, danzò fra le carte. Ne toccò alcune, ne prese una col becco e la consegnò al grande veggente che premiò la bestiola con alcuni chicchi di grano estratti dall'altra manica. Ci fu un silenzio opprimente mentre l'indovino studiava le carte. Grandi cambiamenti in vista, disse poi. La fine della vecchia esistenza, l'inizio di un nuovo ordine, un tempo di decadimento e di genesi. Quando avverranno questi cambiamenti? Presto, forse persino fra un paio di settimane, siate pronta. Quanti cambiamenti vi saranno? Tre. Uno è irreversibile. La morte, esclamò la donna. L'indovino abbassò gli occhi senza negarlo. E gli altri due? Soltanto uno è irreversibile, gli altri seguiranno la furia della tempesta. Che ne sarà del clan? Le carte non lo dicono, prevedono solo che uno fra di voi vivrà fino a vedere 5 generazioni sotto lo stesso tetto. Chi? Chiese la matriarca. Uno che gode di una luce riflessa e scioglie la neve. È tutto quello che puoi dirmi? È tutto quello che ho visto, donna. La matriarca prese una moneta d'argento dalla borsa ricamata che portava appesa alla vita. Subito l'uccello attraversò saltellando il tavolo per prenderla, stringendola poi nel becco come per saggiare il metallo prima di tornare indietro a depositarla nell'apposita scatolina dentro la gabbia. Per tutto il giorno e tutta la notte la matriarca cercò di decifrare gli enigmi, ma senza successo. Verso l'alba si addormentò. Al risveglio capì. Il cambiamento irreversibile era la sua morte. Gli altri Erano le morti dei suoi figli che sarebbero scomparsi nella tempesta imminente. Quando il clan avrebbe indossato la canapa bianca del lutto, allora e soltanto allora sarebbe terminato il periodo. Quanto a quello che doveva vivere fino a vedere 5 generazioni, la luna riflette lo splendore del sole, ogni primavera scioglie il ghiaccio invernale. Nel tardo pomeriggio del 15° giorno della quinta luna, il patriarca della casa dei Chang lasciò i cortili della famiglia per andare a Shanghai. Arrivato in città, doveva mandare un falso telegramma con cui Gioia di Loto richiamava Luna di Primavera a Pechino e un messaggio a Talento Nobile per informarlo della loro imminente morte provocata da un tifone. Poi doveva trovare la scuola di una missione per Giada Lucente e una casa nel settore internazionale per i signori Yang. Il giorno dopo arrivò il telegramma per Luna di Primavera. Quando seppero la notizia, le donne si affrettarono a congratularsi con lei, poiché ritornava alla casa del marito, il giusto posto per una vedova onorata. Avrebbero pianto ai cancelli, lo sapeva, ma avrebbero avuto un sospiro di sollievo appena la portantina avesse svoltato l'angolo. Lei e sua figlia avevano turbato l'armonia della casa dei Chang. Sarebbero state rimpiante solo da due del clan. Prima del tramonto era pronta. Lei e Ciccia chiusero l'ultimo baule, poi sedettero insieme sul letto, tenendosi per mano. Ti manderò a chiamare appena potrò. Ciccia annuì. Luna di primavera si augurava che la vecchia serva non facesse domande, ma quella aveva visto abbastanza da subodorare il pericolo e, prevedendo giustamente la loro separazione, l'aveva giustificata in anticipo agli altri, lamentandosi platealmente che alla sua età le si chiedesse ancora di viaggiare. Non preoccuparti, vecchia amica, andrà tutto bene. E improvvisamente Ciccia scoppiò in singhiozzi. Non era il momento di lasciarsi andare. Ti prego, non piangere. Presto saremo di nuovo insieme, lo so, te lo prometto. Le offrì il suo fazzoletto. Ciccia si asciugò le lacrime, si soffiò il naso e un attimo dopo disse: Giovane padrona. Sì, vecchia amica. Luna di primavera sorrise. È da molto tempo che sono la tua giovane padrona. Cosa desideri dirmi? La serva si schiarì la voce. Se prometti di non ridere, giovane padrona, ti dirò un segreto. Prometto. Ricordi il giorno in cui sei venuta nella mia stanza e mi hai chiamato vecchia amica per la prima volta? Ricordi? Ricordo bene, stavi facendo il bucato. È vero, è vero. Beh, allora ho finto che tu fossi mia figlia. Hai mai sentito qualcosa di più buffo? Prima che Luna di Primavera potesse rispondere, Ciccia si alzò e corse verso la porta. Sulla soglia si fermò. I suoi occhi erano ancora umidi, ma la sua voce era forte. Abbi cura di te, giovane padrona. Non preoccuparti per me. Scorreggerai davanti al diavolo in persona. Quando la guardia intonò l'ora del maiale, Luna di Primavera si cambiò d'abito. Voleva rendere omaggio a Virtù Splendente e ringraziarla per la sua gentilezza, che aveva consentito a lei e alla sua figlia dai piedi grossi di restare per tutti quei mesi a Shuichao senza conoscere il sapore amaro della carità. Anche se il caldo si faceva sempre più soffocante, sua zia si affrettava instancabilmente da un cortile all'altro, provvedendo ai bisogni di tutti, come sempre. In giardino raccoglieva menta fresca e vi aggiungeva petali essiccati di crisantemo per rendere più fragrante il tè della famiglia. Benché la cucina fosse un vero inferno, aveva fatto una crema fredda di fagioli verdi per Giada Lucente appena la ragazza aveva espresso una predilezione per quella. Era rimasta seduta alla finestra a ricamare la luce del sole calante mentre il marito e la nipote conversavano di cose senza alcun significato per lei. Luna di primavera non si era mai chiesta se l'altra fosse felice di restarsene così, ad ascoltare parole incomprensibili, aspettando che l'ora passasse, guardando il marito insegnare alla nipote, quando non leggeva nemmeno i compiti dei propri figli. Che cosa le avrebbe detto ora? Ancora indecisa su quanto avrebbe dovuto dirle, stava infilandosi il ventaglio nella tunica quando sentì bussare alla porta e, Virtù Splendente, serena come sempre, entrò nella stanza. Nelle mani aveva una scatolina avvolta in seta rossa. Nipote, sono venuta ad augurarti buona fortuna e un tranquillo viaggio di ritorno. Luna di primavera arrossì. Zia, mi fate un dono immeritato. Indicò una sedia alla sua ospite. Stavo giusto venendo al vostro alloggio, aggiunse, dandosi da fare con la teiera e offrendo una tazza di liquido tiepido e in sapore. Mi mancherai, Luna di primavera. disse semplicemente Virtù Splendente quando l'altra si fu seduta. Prima che Luna di Primavera potesse trovare una risposta adeguata, la zia le porse la scatolina avvolta nella seta rossa e le sorrise. È per te. Oh, grazie, cara zia. Luna di Primavera si alzò in piedi e prese il pacchetto con entrambe le mani, inchinandosi. Per poco non lo lasciò cadere perché era più pesante di quanto avesse previsto. Sorridendo, lo scosse appena. Un altro onore immeritato, zia? Stava per riporlo con gli altri doni, quando Virtù Splendente disse: Lascia perdere le formalità, nipote, ti prego, aprilo subito. Posso? Virtù Splendente annuì: Prego. Sedutasi al tavolino. Luna di Primavera rimosse la seta, scoprendo lo scrigno splendidamente ricamato. La scena, un paesaggio del Jiangsu con acque e montagne, brume e falci di luna, non era completa, ma riconobbe la mano squisita della zia. Mi dispiace di non averlo potuto finire, ma tu parti domani e io non avevo nessun altro dono. Lo apprezzo così com'è, zia. Gli spazi vuoti fanno risaltare la qualità della vostra arte. Virtù Splendente arrossì. Sei troppo gentile, non è nulla. Ti prego, aprilo. Curiosa, ma senza riuscire a immaginarsi nulla, Luna di Primavera sollevò il coperchio. Dentro c'erano monete d'oro. Le fissò esterrefatta. Sono 52, disse Virtù Splendente. Mia madre ne cucì una in ciascun vestito del mio corredo in modo che avessi fortuna nella casa di mio marito. Ma io non ne ho avuto bisogno. Che cosa mai mi potrebbe capitare fra questi cortili onorati? Tu sei stata buona con me e con mio marito. È meglio che le abbia tu. Chinò il capo. Io che ho più di quanto meriti, sarei così felice se tu, che meriti di più, accettassi questo indegno dono. Per alcuni minuti Luna di Primavera scrutò la donna seduta davanti a lei. Il suo unico scopo nella vita era di servire suo marito, talento coraggioso, e la sua unica ricompensa era il piacere che lui ne ricavava. Che ne sarebbe stato di lei quando fosse stato davvero morto? Non era improbabile che trovasse la vita talmente vuota da prendere l'oppio per cercare di raggiungerlo nell'altro mondo. Luna di Primavera scosse il capo, ma quel pensiero non voleva lasciarla, né l'immagine dello spirito di Virtù Splendente che vagava nell'aldilà, chiamando instancabilmente suo marito senza poterlo trovare. Non scuotere la testa, nipote. Avrai bisogno delle monete. Se tua suocera avesse pensato al tuo benessere, non ti avrebbe mai mandato. Ma Luna di Primavera non ascoltava. Con la stessa chiarezza con cui avrebbe potuto assistere alla scena, qualora fosse stata presente, vide il Manciù penzolare dalla trave, una sciarpa di seta intorno al collo. Che cosa c'è, nipote? Che cosa c'è? Gridò Virtù Splendente. Insieme si protesero attraverso il tavolo e si strinsero le mani. Zia! Sì! Per un po' Luna di Primavera non fu in grado di parlare. Infine le ritornò la voce. Zia! Non ho alcun dono per voi, se non la storia che vi racconterò. Una storia che avevo promesso solennemente alla nonna di non ripetere, una storia nota soltanto a noi e al patriarca. Proseguì lentamente, interrompendosi di tanto in tanto, come se raccontasse una favola piena di persone e luoghi così strani da poter sembrare incomprensibili all'altra. Virtù Splendente rimase immobile per tutto il tempo e quando la storia terminò, per diversi minuti non si udì alcun suono, tranne il canto di una allodola appena liberata in giardino. Infine la moglie parlò. Ti ringrazio per il dono che tu sola mi hai ritenuta degna di ricevere e che veramente mi lega alla casa dei Chang. Sii certa che non verrò meno mai alla tua fiducia. Nessuno sospetterà che io so, né oggi né mai. Poi si alzò e disse in tono formale, come se compisse un rituale. Ora ti devo chiedere di fare tre cose. In primo luogo di accettare le monete per stabilirti convenientemente a Shanghai. In secondo luogo di pensare al benessere degli uomini perché il vostro esilio potrà durare molti anni. In terzo luogo di provvedere a una concubina gradita a mio marito mentre è così lontano da casa. Il mattino dopo, all'ora del drago, Luna di Primavera e Giada Lucente erano sul treno per Shanghai. Quando arrivarono a destinazione si diressero subito al posto prestabilito sotto l'orologio della stazione. Dopo alcuni minuti un messaggero si avvicinò e porse una busta a Luna di Primavera. Lei l'aprì e lesse: Scuola delle Missioni, James Street 100, Travelers Hotel, Rue de la Paix 780. Prendendo la figlia per mano, seguì il facchino fino a una carrozza da noleggio, pagò l'uomo e aiutò Giada Lucente a salire. Diede al cocchiere il primo indirizzo. Dove andiamo, madre? Luna di Primavera non rispose immediatamente alla figlia, invece le raddrizzò il colletto della tunica. Dove andiamo? Chiese di nuovo la bambina. Figlia mia. Aveva pensato a una spiegazione. Rapidamente, prima che la volontà l'abbandonasse, gliela diede. Ti porto in una scuola eccellente. Imparerai molte cose, non solo le materie tradizionali, ma le lingue e i costumi degli stranieri. Giada Lucente non parlò, ma girò di scatto la testa guardando fuori dalla finestra. Figlia! La bambina incrociò le braccia, apparentemente intenta a osservare la gente per la strada. Guardami! Poiché l'altra si rifiutò, Luna di Primavera dolcemente le posò le mani sulle piccole spalle e la fece voltare verso di lei. C'erano lacrime negli occhi di Giada Lucente. Da quanto tempo non succedeva? Certo non aveva pianto quel mattino nel lasciare la casa dei Chang o la casa dei Wu 9 mesi prima. Che cosa c'è, figlia mia? Non voglio restare in una scuola straniera e imparare le cose straniere. Voglio restare con te, a Pechino. Tesoro mio, non puoi venire con me. Luna di Primavera le scostò i capelli dal viso, scottava. Respirò a fondo, cercando le parole adatte. Non ricordi la storia di tuo padre? Di come un tempo andò in Occidente e rimase molti anni lontano da casa. Sapeva di dover andare. Ora anche tu devi andare. Sentendo nominare il padre, la bambina rizzò il capo in ascolto. Avrei preferito non dovermi separare tanto presto da mia figlia, ma dobbiamo rassegnarci tutte e due. È l'unica soluzione. Aspettò una risposta. Giada Lucente annuì. Questa scuola ti aiuterà a mantenere la promessa fatta a tuo nonno, ricordi? Lei annuì ancora e chiese un attimo dopo: diventerò importante? Forse. È la storia a decretare se un personaggio è veramente importante, ma tu acquisterai la conoscenza che ti aiuterà a trovare la giusta strada. Oggi può essere percorsa soltanto da coloro che conoscono la cultura occidentale bene quanto quella cinese. Per quanto tempo resteremo separate, madre? Oh, la scuola è molto impegnativa, le missionarie insegnano diverse cose. Quanto tempo, madre, quanto tempo! La scuola dura 6 anni, senza interruzioni. 6 anni! Non ti vedrò per 6 anni! Una lacrima fu lì lì per cadere. Oh, madre, è tanto tempo, tanto tempo! Luna di Primavera abbassò gli occhi per timore di piangere anche lei. Non ti vedrò per 6 anni! Chiese di nuovo Giada Lucente. Spero di potere, figlia. Prego gli dèi che sia così, ma non posso prometterlo. Attirò la bambina a sé finché i suoi singhiozzi si calmarono e lei trovò il coraggio di riprendere il discorso che si era preparata. Figlia, una volta tuo padre mi disse che doveva essere un uomo di carattere. Il tuo destino è quello di essere la figlia di tuo padre. Il tuo destino è quello di essere il figlio di tuo nonno. Giada Lucente sembrò non averla udita perché chiese, prima che lei potesse proseguire, «Mi scriverai, madre?» Luna di Primavera scosse il capo. «No, bambina mia, non troppo presto. Avere mie notizie renderebbe soltanto più difficile la tua nobile missione, forse più avanti, quando avrai imparato molto.» Giada Lucente aprì la bocca per protestare, ma invece tacque e Luna di Primavera proseguì, «Figlia mia, le lezioni che abbiamo studiato insieme, ricordi cosa deve accadere prima che un bruco diventi farfalla? La bambina annuì. Allora dimmelo, che cosa deve precedere la magica trasformazione? La bambina fu scossa dai singhiozzi e le lacrime le riempirono di nuovo gli occhi, ma non scesero e la sua voce era chiara e ferma mentre ripeteva quel che aveva imparato. Il bruco deve tessere un bozzolo e vivervi dentro da solo. Diventa crisalide e continua a modificarsi in attesa del momento giusto, poi il bozzolo si apre e ne esce la farfalla. Ed è bellissima. E vola. Bene, hai imparato bene la lezione, figlia. E di nuovo le asciugò le lacrime. Madre! Sì? Giada Lucente deglutì più volte. Non sapevo che i personaggi importanti dovessero essere infelici. Era la verità. L'una di primavera avrebbe voluto dare una spiegazione. Ma come poteva? Come poteva dimostrare che la più grande felicità e la più grande infelicità sono una cosa sola? Non ci provò neppure e disse semplicemente: figlia mia, non puoi ricevere nulla senza dare. Fare diversamente sarebbe indegno. Ora sei una bambina, un giorno sarai una donna di carattere. All'ora del crepuscolo di quello stesso giorno, l'una di primavera sedeva sola nella città dalle 15 bandiere, in una stanza anonima, su una sedia così scomoda che i suoi piedi oscillavano stancamente sopra il pavimento. In un modo o nell'altro, doveva avere iscritto già da lucente alla scuola della missione e averle detto addio. In un modo o nell'altro, doveva essere entrata in quell'albergo, aver chiesto una camera, disfatto le valigie, ma non ricordava. Raccogliendo la lettera che aveva in grembo, ruppe il cerchio di cera rossa che portava il sigillo della matriarca. Per un po' il foglio rimase piegato fra le sue mani. Non ancora, pensò, non ancora. Il messaggio era il suo ultimo legame con la casa dei Chang. Una volta reciso, quanto sarebbe durato il silenzio? Non poteva immaginare. Un sospiro le sfuggì, così sconsolato che immediatamente si rimproverò. Se lei non era abbastanza forte, come poteva aspettarsi che sua figlia, da lei allevata, sopravvivesse da sola? Aprì la lettera. Miei cari figli e mia cara nipote, quando questi echi del mio pensiero vi raggiungeranno, io avrò cominciato il mio viaggio al di là delle fonti gialle. Molto tempo prima che voi partiste, avevo sentito il richiamo degli spiriti. Sono stanca e desidero ardentemente riposare nel giardino accanto ai nostri antenati. Non piangetemi, siamo tutti pellegrini in un viaggio avente la stessa destinazione. Sono pronta. Quando la notizia della tragica morte dei miei figli raggiungerà Shuqiao, il mondo penserà che non sono sopravvissuta al dolore. Tutto ciò si accorda con i miei piani e desideri. Che ricordo di me resti nei vostri cuori. Non gemete accanto alla mia bara. Per lo stesso motivo per cui vi ho mandati via, vi proibisco di tornare in questi cortili per inginocchiarvi al mio fianco. Non disubbiditemi. Il clan sarebbe perduto se prevalessero le passioni. Ma quando regnerà di nuovo l'armonia e le colline saranno verdi e il vento dolce, raccogliete i vostri figli e i figli dei vostri figli per rimettere ordine nei luoghi del nostro rifugio eterno. Non trascurate questi riti, altrimenti noi saremo soli, senza un legittimo nome o luogo, senza dimora. La vita è un paradosso, creato dagli dèi affinché i mortali possano giocare a fare gli dèi. Nel suo destino di conservare l'antico, il venerabile ha mandato voi, figli miei, a conoscere il nuovo. Come poteva prevedere che per rigenerare l'impero il clan dovesse appassire? Sono felice di non vedere come terminerà la lotta. Sospetto che ciò accadrà quando l'antico sarà diventato nuovo e il nuovo antico. Nipote mia, è stato predetto che tu sarai benedetta dalle migliori delle possibili fortune. Tu vivrai per vedere 5 generazioni. Sii fedele al tuo destino, bambina. Ascolta i saggi, rispetta la tradizione e fa sì che tutta la nostra posterità sia radunata sotto un solo tetto. Attraverso di voi, figli miei, io vivo, vostra madre e nonna. Il tifone scatenato dal caldo imperversò per 3 giorni lungo le coste della Cina come un vortice gigantesco che affondò navi in mare, ma risparmiò la terra. Si venne a sapere che i fratelli Chang di Shuqiao si trovavano fra i molti affogati.